Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ieri la signorina Buonasera vi aveva rimandato attorno alle 20, a domani, attorno alla stessa ora, ed eccoci qua, eccolo qua, Giulio Caperdoni, eccola qua, Eclettica, come tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM, un'ora di musica, di cinema e di letture. Questa è Eclettica, di cui trovate il dettaglio nella playlist o su myspace.com/eclettica oppure direttamente nella vostra casella di posta. Per averla è semplicissimo, basta iscriversi alla lista nera mandando un mail a giulio@radiorockfm.com. Mi piaceva una ragazza, volevo impressionarla. Per impressionarla avevo scritto un romanzo, 9 racconti e 30 poesie. Lei aveva letto il romanzo, i 9 racconti e le 30 poesie. Aveva detto, sei bravo, scrivi bene, io li adoro, gli artisti. Poi si era messa con un ultraneo nazista del Lecce. Non ho ancora capito dov'è che ho sbagliato. In coincidenza con questo fatto già irritante, nella mia città, simbolo storico della sinistra, era stato eletto per la prima volta un sindaco di destra. Questo era l'incipit dell'Era del Porco di Gianluca Morozzi. Shining like icicles. È già uscito da qualche settimana e io non ho ancora avuto occasione di trasmetterlo, causa anche la sospensione di un mese dalle trasmissioni di Ecletica per la pausa fra la 13ª e la 14ª stagione. Sto parlando del nuovo First Night Forever dell'artista di nome Burnt Fried Man, che è uscito per la Known Place con questo album in cui ogni canzone è una collaborazione con un artista diverso. Io sono andato a scegliere la traccia che vi siete ascoltati in apertura di Eclettica, in cui compare la voce femminile di Barbara Panther, cantante e compositrice di Berlino, che sta incidendo ora proprio il suo disco di debutto, e questa è la sua prima apparizione in assoluto all'interno di un disco. Burnt Fried Man, che ci siamo ascoltati con il pezzo dal titolo Machine in the Ghost. Ed ora si prosegue invece con i nostrani, nonostante il nome, Canadians, che sono veronesi e non canadesi ed escono per la Ghost Records con un album dal titolo A Sky With No Stars. Noi ci ascoltiamo Summer Teenage Girl. All the days in a summer place, drinking beer with you 5 years ago. Discovering new vibrations again, when I was I finally invent something that works! It's your ass that works. Well, it's been a long time, now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a It's been a long time, since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a ciao bella, quanto vuoi? Mi pare onesto. Almeno così, su due piedi. Non sono esperto, ma mi pare onesto. Come? Col guanto? Ovvio, col guanto. Secondo te, non mi metto il guanto? È obbligatorio? No, no, scherzavo. È obbligatorio, eh? Vabbè, sali pure. La cintura, per favore. Mettiti la cintura, grazie. A proposito, per sapere, con ingoio o senza ingoio? Come fai a ingoiare se ho il guanto? Eh beh, sì, era ovvio. Sveglia sei, brava. Volevo vedere se eri attenta. Questo era l'incipit di luglio, agosto, settembre nero di Gianluca Morozzi. Thank you. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone, hold on. If you feel like letting go, hold on. When you think you've had too much of this life, hang on. Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Sometimes. Già vi ho parlato settimana scorsa e quindi non spendo altre parole, visto che c'è anche il podcasting per recuperare quanto già detto. Già vi avevo parlato della compilation dedicata a Automatic for the People degli R.E.M. e in quell'occasione ci eravamo ascoltati una versione che definirei ubriaca di Everybody Hurts da parte dei Meat Puppets. Invece sicuramente molto più enfatica la versione che ci siamo ascoltati, non poteva essere altrimenti, visto che loro sono i progenitori dell'indie gospel, la versione dei Bodies of Water. Prima ci eravamo ascoltati Nant, un estratto dall'ultimo album di Beirut, e si chiude con Seattle, da lì provengono i Siberian. Questa è Belgian Beer and Catholic Girls. Si chiude però solo la prima parte, poi ci sarà altrettanta musica. This is a radiation suit. radiation suit. Of course, because of all the fallout from the atomic wars.